Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, buona domenica soprattutto. Benvenuti a Magazine 24, appuntamento ogni sabato e ogni domenica con le segnalazioni dalle riviste, dai mensili, dai settimanali, periodici in genere, italiani, anche stranieri, qualche volta, da cui traiamo qualche consiglio o anche più spesso qualche curiosità di lettura. Ad esempio, visto che oramai incombe su di noi il Ferragosto, giornata tradizionalmente dedicata al riposo per molti di noi, un paio di questioni che riguardano proprio le vacanze trovate qua e là nelle varie testate. Una da Wired, che riguarda soprattutto gli appassionati di Facebook, in realtà sono oramai milioni in tutto il mondo. Avverte Wired in una sua rubrica che si chiama Help, una serie di pagine che sono riportate nella parte conclusiva della rivista, che durante le vacanze, cioè durante la nostra assenza, la bacheca di Facebook rischia di trasformarsi in un bel pasticcio, perché ci possono essere decine di inviti a giocare a uno dei tanti cloni di Farmville, è un gioco che si pratica appunto tramite Facebook, oppure finte foto in cui gli amici ci taggano per attirare l'attenzione e così via, magari anche delle applicazioni un po' selvagge che rubano il nome da un elenco di amici e poi coinvolgono nostro malgrado, o meglio a nostra insaputa, nello spam. Tutto questo però, dice Wired, dando appunto un consiglio molto pratico, si può evitare, e consiglia di andare nelle impostazioni della privacy di Facebook, spuntare la casella che sta accanto a possibilità di pubblicare elementi sulla mia bacheca da parte degli amici. E appunto il segreto è che, spuntando questo, si evita di essere coinvolti senza volerlo in attività che potrebbero riguardare la nostra bacheca e magari ci potrebbero anche procurare qualche grattacapo, finendo per trasformarci magari in spammer, cioè in disturbatori informatici. Parliamo ancora un pochino di vacanze, parliamo delle vacanze però, delle vacanze dei figli viste dai genitori. C'è sempre un momento molto temuto nella vita dei genitori in cui il figlio, la figlia chiedono di andarsene in vacanza da soli, e naturalmente diventa poi difficile anche valutare se il momento sia quello giusto, la maturità del figlio o della figlia siano sufficienti, se la sapranno cavare e così via. Insomma, chi ha figli in età appunto prossima a questa vacanza da soli sa bene di cosa stiamo parlando. Se ne occupa Famiglia Cristiana in questo numero, nel numero di questa settimana, un articolo firmato da Simone Bruno e altri articoli poi curati da Orsola Vetri, Simonetta Pagnotti e dallo stesso Simone Bruno. Si analizzano le mete preferite dai ragazzi, il periodo che viene così più facilmente utilizzato dai più giovani. Naturalmente si cerca di evitare magari il periodo, questo periodo, questi giorni che sono notoriamente più costosi. E poi c'è un confronto che mi è parso interessante, che vi voglio segnalare, con Carla Antoniotti, che è psicologa e psicoterapeuta a Bergamo e che viene definita appunto da Simone Bruno esperta dei travagli che segnano il passaggio dall'età tardo adolescenziale a quella giovanile, a quella adulta. Chiede il collega Bruno alla dottoressa Antoniotti: ma c'è un'età in cui i ragazzi diventano pronti per fare una vacanza da soli? Ohimè, devo dirvi che la dottoressa non la indica, dice: non penso esista un'età specifica, perché durante lo sviluppo adolescenziale si affacciano molte caratteristiche personali che non sempre possono essere generalizzate per tutti. Dovremmo piuttosto considerare, prosegue, le competenze raggiunte dai ragazzi, il loro grado di autonomia, il senso di responsabilità, la capacità di usare strategie per affrontare i problemi. Inoltre, aspetto non trascurabile, quanto loro stessi si sentano pronti per una vacanza da soli. E qui devo dire, è sempre più difficile, insomma, per un genitore sapersi, come si dice, regolare. Ci sono delle destinazioni più adatte, si chiede? No, sostanzialmente in cui c'è una libertà di scelta consigliata dalla psicologa, che dice è importante soprattutto ascoltare le esigenze dei ragazzi, magari cercare con loro il luogo più adatto al tipo di vacanza che loro stessi desiderano. Si calcola che la quota di turisti tra i 18 e i 24 anni rispetto al totale di viaggiatori sia del 9,4%. In pratica, un turista su 10 è composto da giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni. Dove vanno preferibilmente i giovani? Vanno al mare. 58% del campione considerato sceglie il mare, il 20% sceglie di visitare una città, solo un 13% sceglie la montagna. E poi un'ultima considerazione numerico-statistica: la voglia di stare insieme. Le vacanze sono per tre quarti degli italiani il momento in cui trascorre più tempo in famiglia. In questo siamo decisamente davanti ad altri stati europei, perché risultano invece desiderosi di passare le vacanze insieme alla famiglia il 68% degli inglesi, quindi un po' di meno di quanto risulti per noi, e addirittura il 58% degli olandesi, che sembrano meno sensibili a questo momento di riunione familiare. Questa indagine, curioso segnalarlo, è stata commissionata all'Ipsos da Disneyland Parigi. Chiaramente era un'indagine che mirava a capire quanto le famiglie avessero voglia di muoversi insieme e dove dovevano essere indirizzate le proposte per le famiglie per recarsi appunto al parco di divertimenti che sta nella periferia della capitale francese. Cambiamo completamente argomento, torniamo su Wired, non parliamo più di vacanze, questa volta parliamo di qualcosa che è in vacanza in questo momento, ma che presto tornerà per la gioia di molti e magari per la disperazione o comunque la non gioia di altri. Sto parlando del campionato di calcio. Ma forse vi stupirete che la segnalazione provenga da Wired, che come sapete è un mensile che si occupa di tecnologia, di trend tecnologici, insomma di sviluppi tecnologici, e si occupa anche in questo numero di calcio e statistica, perché non so quanti appassionati di calcio lo sappiano, ma c'è un uso sempre più diffuso della statistica nelle squadre di calcio. La cosa è stata iniziata, cominciata diciamo tra gli Stati Uniti e il Regno Unito, e poi via via si sta diffondendo, è stata utilizzata anche in Italia da diverse squadre. Ci sono degli statistici ormai che vengono proprio cercati dalle squadre di calcio, e questi dati che loro forniscono sono poi determinanti nel decidere magari la cessione o l'acquisto di un giocatore. Qui sì, ci sono tante storie, l'articolo è peraltro abbastanza lungo, e quindi l'articolo è firmato da Gilles Reuil, e l'articolo è molto lungo e prende in esame tanti casi che vanno dall'Arsenal alla squadra di baseball americane e così via. Vi segnalo qualche cosa per dire, ci fu un signore, Allardyce, attualmente fa l'allenatore del West Ham, che giocò un anno nel Tampa Bay, è una squadra della Florida, rimase affascinato appunto dal modo in cui gli americani applicano scienza e statistica allo sport. Nel 99 diventò appunto l'allenatore di una piccola squadra, la squadra del Bolton, e siccome non si poteva permettere i giocatori migliori, decise di prendere dei buoni statistici. Così si accorse che normalmente in una partita la palla cambia piede 400 volte, e lui martellava i suoi calciatori con questo dato: Diceva: questo dato è centrale per capire che bisogna immediatamente ritirarsi in difesa nel momento in cui si perde palla, e sapendo che cosa succede 400 volte in ogni partita. Poi ci sono le informazioni che riguardano le palle inattive, cioè i calci d'angolo, i calci di punizione. Ecco, quasi la metà dei gol del Bolton veniva realizzata su azioni da fermo, grazie appunto allo studio di questo dato statistico, contro una media che invece era del 33%. Naturalmente io mi immagino che molti storcano il naso, molti appassionati di calcio storcano il naso, in fondo poi avere un buon giocatore è sicuramente meglio, o sembra sicuramente che è meglio che avere uno statistico molto bravo. Però devo dirvi che, proseguendo nella lettura dell'articolo, io stesso ho avuto modo di ricredermi. Ad esempio, si tratta più che altro di caratterizzare bene la domanda. C'è stato un momento in cui gli statistici usavano giudicare la bontà di un difensore sulla quantità dei tackle, cioè dei contrasti che lui portava in scivolata, ad esempio, nei confronti dell'avversario. Poi hanno studiato Paolo Maldini. Paolo Maldini, terzino del Milan, che risultava fare un tackle ogni due partite, ed era un difensore non ottimo ma eccezionale. E gli statistici allora hanno dovuto mestamente, e così riferiscono proprio anche a Wired, prendere atto che se uno è così bravo che si posiziona bene in campo non ha nessun bisogno di fare un tackle, e quindi quel difensore è sicuramente da comprare, anche se statisticamente non sembra così convincente. E certo, l'utilizzo delle questioni scientifiche, insomma, in campi non propri, qualche volta genera anche degli straniamenti, appunto come il caso dei tackle applicati a Paolo Maldini, che mandava in difficoltà appunto non solo gli attaccanti avversari ma anche le statistiche. Credo che il tempo, prima di fermarci della pausa per il traffico, non sia moltissimo, allora vi do solo questa indicazione e poi ritorniamo. Su Nouvel Observateur questa settimana, Ladri di parole è il titolo che è stato dato a una rubrica di Jean-Claude Guillebeau, e si occupa appunto di come tutti si siano proprio appropriati di termini economici, della scienza economica, ma traendoli poi fuori dal loro contesto. E questo, secondo lui, ha generato un po' un'intossicazione da economia. Devo dire che in generale ci siamo abbastanza riconosciuti qua nel leggere di questa intossicazione da economia, forse perché veniamo anche da giorni abbastanza calamitosi. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Vi stavo anticipando, prima dell'interruzione per il traffico, questa segnalazione da un settimanale francese, si chiama Nouvel Observateur, Ladri di parole, riferito appunto ai termini economici, perché effettivamente si fa un grande uso di termini economici, direi quasi un abuso di termini economici, spesso slegati dal loro contesto, e questo fa scrivere a Jean-Claude Guillebeau che siamo un po' ci troviamo poi proiettati in dibattiti che sembrano diventare irreali, quando non addirittura surreali, con queste grandi coppie: il privato contro il pubblico, la globalizzazione o il localismo, il rigore o lo sviluppo, l'equilibrio, lo Stato nel come presente nella politica industriale oppure assente la politica industriale. E dice: in questo modo poi finiamo per non capire più molto di che cosa stiamo parlando, anche perché ci sganciamo dall'aspetto scientifico dell'economia e invece usiamo più o meno degli slogan di cui magari ci sfugge anche un po' il significato. Questo poi è l'occasione per lui per segnalare un volume che esce però in Francia, scritto appunto da un filosofo e un economista, che si chiama L'economia tra sapere e illusione, critica della ragione economica. Questo è il titolo tradotto dal francese, non è invece disponibile in Italia, e spiega appunto come si è arrivati un po' a questa intossicazione di termini economici, davvero un'intossicazione che poi in questi ultimi giorni ha subito anche una doverosa recrudescenza, perché abbiamo dovuto tutti confrontarci di nuovo con termini come spread, come listini, insomma con tutti questi rovesci, queste altalene borsistiche e poi anche politiche che sono state descritte anche qui a Radio 24 e naturalmente sul Sole 24 Ore. Tanto basti per la scienza, perché adesso invece vi voglio segnalare un articolo che non ha assolutamente niente di scientifico, ma che trovo ugualmente adorabile. L'articolo di Francesca Grillo è su Airone di questo mese. Voglio descrivervelo così, con una citazione che la stessa Grillo mette nelle prime righe dell'articolo. Dice: l'attore napoletano Eduardo De Filippo affermava che essere superstiziosi è da ignoranti, però non esserlo porta male. Questo aforisma di De Filippo mi sembra azzeccatissimo per descrivere l'articolo, che ci segnala soprattutto che il cornetto, vi parlo proprio dell'amuleto, del cornetto che si usa come amuleto, quello rosso che penso abbiate tutti presente, che è un cornetto tradizionalmente di Napoli, viene fabbricato a Milano. Anzi, ad essere proprio precisi, non viene fabbricato a Milano, viene fabbricato a Trezzano sul Naviglio, che è un paese con meno di 20.000 abitanti alle porte di Milano. Lì ha sede una storica famiglia di Trezzano che dà il nome all'azienda, la famiglia si chiama Predan, da oltre 50 anni si occupa di realizzare cornetti, gobbi, ferri di cavallo e altre decine di ninnoli anti-iella. La ricetta di fabbricazione è naturalmente segreta, come ogni amuleto che si rispetti. Airone, tra lo diciamo in modo semiserio, fa anche un catalogo degli amuleti anti-iella. Allora, adesso io, anche perché credo che la frase di De Filippo, appunto, essere superstiziosi sarà da ignoranti, ma non esserlo porta male, non ci farà male dare una scorsa a questo catalogo dell'anti-iella. Allora, il più diffuso naturalmente è il corno o curniciello napoletano, viene realizzato a mano, rigorosamente è di colore rosso. Richiama la cornucopia, oggetto della mitologia greca, e quindi è associato ad abbondanza e prosperità. Poi c'è il gobbo. Ecco perché il gobbo porterebbe fortuna. Si spiega che questo uomo è piegato perché è costretto a portare sulle spalle fortuna e ricchezza, e ne ha così tanta, appunto, che questa fortuna e questa ricchezza hanno piegato la sua schiena. Quindi accarezzare la sua deformazione fisica è poi il simbolo del buon auspicio. E poi il ferro di cavallo. Il ferro di cavallo ha un numero infinito di leggende, si legge appunto su Airone, legate al suo significato di portafortuna. Pare abbia origini dall'antica Grecia, pare anche che in tempi romani lo affiggessero alle porte per scongiurare la peste. Possiede un significato di portafortuna del toccare ferro, che naturalmente si lega al fatto che il ferro è sempre stato usato per fabbricare armi. Però c'è anche, ci sono anche degli aspetti leggendari o legati addirittura alla religione. Si dice che San Dunstano era un abile maniscalco e fu pregato dal diavolo in persona di liberarlo dal tormento che lo affliggeva a seguito di uno zoccolo che era stato ferrato appositamente male proprio da San Dunstano. Allora lui decise che fece questo patto col diavolo, in cui appunto lo avrebbe liberato sì dal ferro ferrato male, ma solo a patto che i malefici poi non colpissero le case che lui avrebbe deciso di proteggere, che Dunstano avrebbe deciso di proteggere con la presenza del ferro. Si consiglio da Airone, che il ferro di cavallo venga posizionato con le estremità verso l'alto, e qui siamo al richiamo di un gesto scaramantico per eccellenza, quello appunto delle corna. Non citati anche in questo catalogo, che comunque lasciamo per poi passare ad altre segnalazioni, anche la, naturalmente, la coccinella, simbolo di buon auspicio e dispensatore di fortuna, e poi i quadrifogli, di cui però bisogna stare attenti a non confondere le specie, perché ci sono delle diciamo due caratteristiche: il quadrifoglio delle quattro foglioline a forma di cuore, ma il vero antisfortuna è l'anomalia del trifoglio bianco. Il trifoglio bianco è proprio quello che è il più importante dei scacciatori di guai tra quelli che vengono appunto riportati nell'ambito botanico. E allora questi sono il Modern Jazz Quartet, sono la nostra proposta, il Modern Jazz Quartet sono la proposta di questa settimana per la collana dei miti del jazz. Se seguite la nostra trasmissione o seguite le pubblicazioni del Sole 24 Ore sapete che già da diverse settimane proponiamo ogni giovedì un CD con anche un libretto dedicato proprio ai miti del jazz. La collana è cominciata già da tempo con Ella Fitzgerald, ci sono stati Miles Davis, Glenn Miller, Billie Holiday e altri ancora. Questo è il Modern Jazz Quartet. Il brano di cui abbiamo sentito una parte si chiama The Jasmine Tree. Il Modern Jazz Quartet, trovate tutta la storia naturalmente in questo CD che proponiamo in edicola, ma sono stati protagonisti della seconda metà del secolo scorso, hanno attraversato buona parte della seconda metà del secolo scorso, suonarono insieme appunto tra il 52 e il 74 ed erano un vero e proprio quartetto con un progetto musicale, un progetto culturale e musicale. Tra l'altro ci sono anche degli aneddoti qua e là, delle frasi celebri appunto che caratterizzano la carriera, la lunga carriera di questo quartetto. Ad esempio si dice che di una certa canzone che si chiama Django, che gli appassionati conoscono sicuramente, dice: se non suonavamo Django durante un concerto rischiavamo di essere lapidati. Noi abbiamo deciso di non farvi ascoltare Django invece questa mattina con Pietro Lacorte, ma invece di farvi sentire questo The Jasmine Tree, che ci sembrava più adatto anche a una giornata festiva. Magari ne mettiamo ancora una parte, Pietro. Lasciamo il Modern Jazz Quartet, grazie a Pietro Lacorte anche questa mattina del 14 agosto qui in regia. Visto che parliamo comunque di un'incisione non nuovissima, perché questo brano è stato registrato, questa esecuzione è stata registrata nel 71 a Madrid, così avverte appunto il nostro CD, è bello confrontarla con una indicazione che compare su Wired di questo mese, cioè il fatto che i file, ohimè, non sono eterni, anzi sembrano essere molto meno duraturi di tanti altri supporti. Le tue foto delle vacanze, così è il titolo giustamente accattivante, dice: ma le tue foto delle vacanze spariranno tra 30 anni? Perché? Perché forse avete già sperimentato la sgradevole sensazione di avere conservato qualcosa su un computer di qualche anno fa e di non poter più leggere quello che avete archiviato, perché nel frattempo sono cambiati i computer, sono cambiati gli standard e quindi non avete o quasi più accesso ai file. È un problema di formati che vengono sostituiti naturalmente, ma certo si dice... nessuno ci garantisce che tra 30 anni gli standard che adesso utilizziamo, per dire il JPG che è famoso per le immagini, saranno ancora perfettamente leggibili. Del resto, chiude Riccardo Meggiato appunto nel segnalare questa particolarità, magari a cui non si pensa spesso, dell'era digitale, dice: ormai abbiamo avuto tutto il tempo per trasferire le musicassette e i VHS nel computer prima che questi gloriosi supporti morissero, perché voi l'avete già fatto, vero? Ecco, forse non molti di noi hanno trasferito le loro musicassette, il loro vinile, i loro VHS nel computer o su altri supporti, e ohimè il guaio è che rischiamo appunto di perderceli, che magari non corriamo con le vecchie foto del secolo scorso o da ancora prima dei nostri antenati, ancora perfettamente utilizzabili e leggibili. E questa, credo, dai cenni che mi fa Pietro dall'altra parte del vetro, sia la nostra ultima segnalazione. Allora io ringrazio Luca Cremonese che mi ha aiutato a preparare questo programma, ringrazio ovviamente Pietro Lacorte per l'assistenza in regia. Vi ricordo che con il Sole 24 Ore trovate, se avete voglia di leggere, volete sfruttare il periodo estivo per leggere, ben due proposte di lettura. Una è L'isola di Arturo di Elsa Morante per la collana dei capolavori del premio Strega, e l'altra sono due racconti di Somerset Maugham, racconti orientali, lo trovate in edicola oggi con il Sole 24 Ore. Questa è la nostra ultima segnalazione, anche il nostro ultimo consiglio di lettura. Vi auguro un ottimo Ferragosto. Magazine 24 ritorna sabato prossimo.